20h. Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Ed eccoci per un altro appuntamento, è sempre Stefano, Radio Alma, il programma è Jazz e dintorni, e un'altra scorribanda in questo meraviglioso genere musicale. Come al solito avremo una puntata a tema e questo tema scelto per oggi è uno strumento musicale. Ricorderete che diverse puntate fa abbiamo parlato del pianoforte, oggi parliamo di un altro strumento molto importante nel jazz, nelle varie formazioni che si ritrova regolarmente, direi. E parliamo del contrabbasso. Il contrabbasso potremmo definirlo come il gigante a quattro corde, perché il gigante, chi è presente come è strutturato questo strumento, chiaramente capisce immediatamente che è uno degli strumenti più grandi, più ingombranti, senz'altro, dell'intera orchestra, non solo nel jazz, perché infatti il contrabbasso è anche uno degli strumenti, uno degli archi utilizzato normalmente nelle orchestre sinfoniche. Chiaramente l'utilizzo che si fa nel caso del jazz è ben diverso da quello delle orchestre sinfoniche, ma rimane sempre un suono molto basso, appunto, molto pieno, molto caldo spesso. Lo sentiremo oggi in diverse declinazioni, con interpretazioni di grandissimi contrabbassisti. Ci limiteremo al contrabbasso in quanto tale, quindi diciamo allo strumento acustico, non alla sua versione elettrica, cosiddetta basso elettrico, perché già ce n'è fin troppo da presentarvi con il contrabbasso. Se poi unissimo anche la versione elettrica, chissà, dovremmo forse passare un'intera serata insieme, cosa che farei volentieri, ma forse è bene limitarci come sempre alla nostra oretta insieme, spero in buona compagnia, in compagnia di buona musica. E qual è la prima proposta? La prima proposta è un giovane contrabbassista americano, si chiama Christian McBride, ha 37 anni, è nato a Filadelfia ed è già uno dei mostri sacri di questo strumento. Suona lo strumento già da quando aveva 9 anni, anzi veramente 11 il contrabbasso, 9 anni aveva iniziato con il basso elettrico. Si trasferisce presto a Roma, a New York, a 17 anni si trasferisce a New York, alla Julia School di New York, una delle scuole più prestigiose di musica americana. In realtà però da quasi subito comincia a suonare e a prendere contatti con grandi musicisti, quindi inizia subito a girare musicisti come Roy Hargrove, Freddie Hubbard e fino a poi a continuare con queste band e aggiungere anche a dischi in cui lui è il leader. Il disco in particolare da cui ho tratto il pezzo che vi farò ascoltare si intitola Vertical Vision e il pezzo si intitola A Precious One e Christian McBride, lo sentirete immediatamente sin dall'inizio con il suo meraviglioso contrabbasso. Thank you. Christian McBride Band, Precious One, da un disco del 2003 titolato Vertical Vision. Avete già potuto ascoltare da questo primo pezzo una delle caratteristiche del contrabbasso nel jazz. Il contrabbasso è quasi sempre, nella maggior parte dei casi, pizzicato, quindi sentite quel suono prodotto dalle dita che pizzicano le corde, una delle quattro corde, una o più delle quattro corde. Invece il contrario avviene nell'orchestra sinfonica, nel contrabbasso usato nell'orchestra sinfonica. L'orchestra sinfonica, nella maggior parte dei casi, il contrabbasso viene suonato con l'archetto e quindi produce un suono molto differente. Altra grande differenza, oltre chiaramente alla musicalità, al tipo di giri, al tipo di note che vengono suonate, è che nella musica sinfonica è molto raro che vi siano delle parti soliste o comunque dei concerti per contrabbasso e orchestra. È molto raro che questo strumento abbia il ruolo di un solista. Invece nel caso del jazz, direi che il contrabbasso ha spesso un suo ruolo solista, nelle improvvisazioni ha un suo spazio, quindi ha un ruolo molto importante, e non è un caso che anche nei trio, nei quartetti, uno degli strumenti è praticamente sempre il contrabbasso, quindi è uno strumento che ritroviamo spessissimo. Nel nostro viaggio attraverso grandi contrabbassisti incontriamo adesso un altro contrabbassista, anche lui piuttosto giovane, si chiama Charnett Moffett, ha 42 anni, è nato nel 67 e anche lui suona il contrabbasso sin da piccolo, potremmo dire. Anzi, c'è una particolarità del suo nome, Charnett. Charnett è l'unione di due nomi, in realtà. Il padre, che si chiamava Charles Moffett ed era un batterista jazz, e poi l'altra parte del nome proviene da Ornette Coleman, che era un grande sassofonista jazz molto amato evidentemente dal padre. Da qui viene il nome di Charnett Moffett. Charnett Moffett è molto impegnato nella musica, anche proprio come messaggio da portare, tant'è che lui si lascia molto ispirare e ritiene che, giustamente direi, ritiene che la musica ha un ruolo molto importante nella vita, tant'è che una frase, una sua citazione in passato è stata: sto cercando di unire la gente sul pianeta attraverso la musica, questo è uno dei compiti della mia vita. Adesso lo sentiremo in un pezzo tratto da un disco del 1987, il disco si intitolava Netman, e il pezzo che sentirete si intitola For You, Charnett Moffett. Charnet Moffett, pezzo tratto dal disco Net Man del 1987, For You. Avete sentito che energia, che vitalità in questo pezzo, un po' sono le caratteristiche di questo contrabbassista nel modo in cui appunto lui affronta il suo strumento. Charnet Moffett sicuramente rappresenta molto bene un certo modo di avvicinare questo strumento. Ve ne sono molti altri, adesso anche il prossimo musicista che ascolteremo, vedrete, ha le sue particolarità, le sue caratteristiche nell'utilizzare al meglio questo bellissimo strumento che è il contrabbasso. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Alma 101.9 a Bruxelles. Chi vi parla è Stefano, il programma è Jazz e dintorni e oggi stiamo parlando del contrabbasso nel jazz, il gigante a quattro corde. Ecco un altro allora esempio di questo gigante, del suono che può essere prodotto, delle atmosfere che possono essere create con questo gigante, ci darà adesso Mark Johnson. Mark Johnson è anche lui un contrabbassista americano, nato nel Nebraska, ha 56 anni, è uno degli artisti ECM, ne avete sentito spesso ripetere questa casa discografica molto importante, molto nota, che riesce sempre a creare delle bellissime atmosfere, che ha una squadra di musicisti che nel passato e anche nel presente hanno inciso cose straordinarie. Mark Johnson ha collaborato con tantissimi importanti musicisti, anche un musicista molto importante di casa nostra che è Enrico Pierannunzi, ma anche con John Abercrombie, il chitarrista, con il batterista Peter Erskine. In questo particolare caso che ascolteremo suona con un altro chitarrista, un chitarrista austriaco molto importante che si chiama Wolfgang Mutspiel, e con un batterista straordinario che è Brian Blade. Il pezzo che ascolteremo si intitola Air, Love and Vitamins ed è tratto da un disco che ha lo stesso titolo, inciso nel 2004. Mark Johnson con Wolfgang Mutspiel e con Brian Blade. Thank you. sfumiamo su questo bellissimo contrabbasso di Mark Johnson, accompagnato in trio da Mutspiel and Blade, Air Love and Vitamins. Anche qui un'altra interpretazione, un altro utilizzo di questo strumento, interpretazione musicale, intendo dire, di questo strumento molto particolare, ma sempre molto, molto bella. Spero appunto di aver selezionato per voi dei brani, soprattutto, non tanto dei musicisti su cui non c'è dubbio, ma dei brani che siano significativi, che mettano in luce questo strumento. Anche nel prossimo sicuramente potrete ascoltare un altro modo di intendere questo strumento sempre ad altissimo livello. Si tratta di Eddie Gomez. Eddie Gomez è un contrabbassista nato in Porto Rico, ma già in giovane età è emigrato negli Stati Uniti a New York, dove è cresciuto e dove ha studiato. Anche lui ha cominciato a suonare il contrabbasso in giovane età, quando aveva 11 anni, come Christian McBride, se ricordate con la mia citazione iniziale. E anche lui ha studiato alla Juilliard School di New York, dove si è diplomato nel 1963. Eddie Gomez conosce subito un importante ingaggio, comincia a suonare ad altissimo livello con il trio di Bill Evans, e rimane con Bill Evans dal 1966 al 1977. Vi ricordo che Bill Evans purtroppo è scomparso nel 1980, quindi sostanzialmente ha suonato per l'ultima parte della carriera, una parte molto lunga della carriera di Bill Evans. Eddie Gomez era il suo contrabbassista, quindi già questa è una garanzia della sua qualità e delle sue capacità. Poi ha suonato anche con tantissimi altri grandi musicisti, con Miles Davis, con Gillespie, con Wayne Shorter. Da ricordare, senza fare lunghe liste, sicuramente la militanza negli anni '80 con questo importante gruppo che erano gli Steps Ahead, un gruppo importantissimo nella fusion, Mike Manieri, Michael Brecker e tanti altri che hanno rappresentato con questo gruppo certamente un momento di avanguardia, di sperimentazione molto interessante e di fusione anche lì fra diversi generi, con dei risultati sicuramente notevoli. Eddie Gomez non ha inciso molti dischi come leader, come diciamo solista principale, ma ha partecipato a tantissime registrazioni. In questo caso quello che ho scelto per voi è invece uno dei dischi in cui lui è il band leader. Il nome del disco è il suo, è a suo nome, come Eddie Gomez. E il disco si intitola Power Play, è un disco del 1987, il pezzo si intitola Mel, e vi devo segnalare naturalmente che l'altra parte ritmica, e cioè la batteria, vi è un altro grandissimo musicista che è Steve Gadd. Il pezzo si intitola Mel. Thank you. Nos enfants sont le clou pour mondialiser le travail décent. Les travailleurs ne sont pas des outils. Alors vous aussi, soutenez 11 11 11. Faites un don sur le compte 8 x 0 11 11. E abbiamo appena ascoltato Eddie Gomez con Steve Gadd in questo pezzo Mel da Power Play, un pezzo del 1987. Altro salto, altro contrabbassista, altre sonorità. Adesso passiamo a Deborah Weber, un contrabbassista tedesco, anche lui con notevoli, collaborazioni un po' in tutto il mondo. Ha 69 anni, quindi è sulla scena ormai da molto tempo, già negli anni 60 e 70 ha inciso dei dischi molto importanti, soprattutto dei dischi con la ECM, anche in questo caso queste sonorità particolari che si riescono a ottenere. Adesso negli ultimi tempi i suoi dischi sono diventati un po' più rari, ma non per questo meno belli. Ed è proprio da uno dei suoi dischi recenti abbiamo scelto questo Yesterday. Il contrabbassista che ascolterete si chiama Eberhard Weber. Thank you. Eberhard Weber, un pezzo intitolato Yesterday. Avete sentito anche in questo caso come le sonorità che riesce a produrre sono particolari, avete forse un po' riconosciuto questo stile ECM in termini di atmosfere. Finora abbiamo ascoltato contrabbassisti americani, in questo caso l'ultimo era tedesco, forse è anche tempo di ascoltare qualche contrabbassista di casa nostra, qualche contrabbassista italiano, ne abbiamo sicuramente di notevolissimo livello. E in una rassegna breve, come necessariamente deve essere questa, non possiamo non iniziare, in questo caso, dal contrabbassista italiano, sia per età, sia per storia, sia per importanza nell'ambito del nostro jazz, ha un ruolo sicuramente importante, particolare. Parliamo di Giovanni Tommaso. Giovanni Tommaso è nato a Lucca nel 1941. Perché è molto importante? Beh, perché già alla fine degli anni 50 Tommaso comincia a non solo incidere, ma anche a percorrere nuove strade, a cercare di così scoprire cosa c'è al di là dell'Italia in quel periodo. Infatti a 18 anni Giovanni Tommaso inizia a lavorare come musicista in alcune nelle orchestre che suonano le navi di crociera. Questo perché è importante? Perché chiaramente gli permette anche di andare negli Stati Uniti e di entrare in contatto con vari musicisti importanti del momento, Paul Chambers, Ray Brown, Charlie Mingus, e quindi capite bene che questo tipo di influenza, questo tipo di esperienza e sollecitazione gli aprono nuovi orizzonti e nuovi stimoli. Ritornerà in Italia nel 67 con tutto il suo bagaglio e entra nella RCA italiana, sapete, una casa discografica molto importante del tempo come musicista, e quindi anche lì collabora anche con tantissimi musicisti che incidono per questa casa discografica, da Gianni Morandi a Mina a Riccardo Cocciante, quindi portando tutto il suo bagaglio e tutta la sua professionalità anche in un contesto diverso dal jazz. Il jazz rimane sempre chiaramente nel suo profondo animo, oltre a suonarlo si impegna come animatore, diciamo. Infatti fonda insieme a Pepito Pignatelli uno dei jazz club più importanti di Roma, conosciuto da tutti coloro che hanno abitato a Roma e anche da tutti coloro che amano il jazz in generale. Si tratta del Music Inn, un locale dove sono passati i più grandi musicisti internazionali, Dexter Gordon, Art Farmer, quindi c'è questo profondo attaccamento al jazz, non solo suonato ma anche in termini di diffusione. Sempre come spirito innovatore, anche qui purtroppo dovrò farla molto breve, vi ricordo che Giovanni Tommaso è il fondatore del gruppo Perigeo. Anni 70, l'abbiamo ascoltato nel programma dedicato agli anni 70, il gruppo più importante di jazz rock italiano, più innovatore, anche lì che sicuramente svecchia un po' quello, o comunque stimola in termini di sperimentazione anche la musica italiana di quel periodo. Giovanni Tommaso continua ad essere molto attivo, a incidere, e il pezzo scelto oggi è un altro pezzo molto particolare, anche qui si potrebbe parlare a lungo, è una sua interpretazione di un pezzo famoso, un pezzo di un film, è la musica tratta da Il Postino, la riconoscerete sin dalle prime note, e questo pezzo è tratto da un disco del 2005 intitolato La Dolce Vita, in cui c'è un quartetto d'eccezione, almeno in termini musicisti italiani. Oltre a lui c'è Enrico Rava alla tromba, Bollani al pianoforte e Roberto Gatto. Il pezzo che sentirete è Il Postino, tratto dal famosissimo film, e il pezzo è scritto da Luis Bacalov. Thank you. Ecco che cosa possono fare quattro grandi musicisti nostrani quando il pezzo è bellissimo e quando c'è tanta ispirazione. Era Il Postino, un pezzo scritto da Luis Bacalov, eseguito dal Tommaso Rava Quartet, che prevede anche Bollani e Gatto in questa, appunto, team, in questa band d'eccellenza che riesce a ricreare delle atmosfere che rapriscono, come rapiva appunto il film interpretato dal compianto Massimo, dal Massimo Troisi, come tutti ricorderete, l'ultimo film che ha realizzato nel 1994. E adesso un altro breve spazio dedicato ad un altro artista, un altro contrabbassista italiano molto importante. Si tratta di Rosario Bonaccorso. Rosario Bonaccorso è un ligure nato a Imperia e anche lui ha contribuito e ha collaborato con tantissimi dischi e con tantissimi importanti musicisti. In questo caso lo ascoltiamo in un disco di Stefano Di Battista, sassofonista, anche lui di casa nostra, e alla batteria Elvin Jones. Il disco si intitolava Stefano Di Battista, un disco del 2000, e il pezzo è Song for Flavia. Rosario Bonaccorso in particolare al contrabbasso. Rosario Bonaccorso al contrabbasso in un pezzo dal disco di Stefano Di Battista del 2000 che porta il nome appunto del musicista. Il pezzo era Song for Flavia. E adesso per chiudere abbandoniamo i contrabbassisti italiani, ce ne sarebbero altri sicuramente da ascoltare, per proporvi un altro anziano, in questo caso contrabbassista americano, che sicuramente anche lui ha rappresentato un punto di riferimento importante per questo strumento. Si tratta di Ron Carter. Ron Carter ha ormai 72 anni, continua a essere molto attivo sulla scena musicale e lo è da moltissimo tempo, potremmo dire da quando aveva 10 anni. E anche lui è cominciato molto presto, ma ha cominciato a suonare il violoncello, solo più avanti è passato al contrabbasso. Ha suonato anche lui con i più grandi musicisti, fra cui naturalmente con Miles Davis negli anni 60, faceva parte del suo secondo grande quintetto e con cui ha inciso naturalmente importantissimi dischi. In questo quintetto, solo per darvi un'idea, c'era anche Tony Williams alla batteria, Wayne Shorter al sax, Herbie Hancock al pianoforte, quindi capite bene che si trattava di nomi e di pesi massimi. Poi ha continuato naturalmente a incidere con i più importanti musicisti e spesso anche avendo delle band tutte sue. È un personaggio anche sul piano diciamo dell'immagine molto impressionante, perché è molto distinto, si avvicina sempre con molta umiltà allo strumento e poi riesce a tirare fuori dei suoni straordinari. Il pezzo che sentiremo si intitola Whisper Not, è tratto da un disco molto recente del 2008 che si intitola Jazz and Boss. Il pezzo è Whisper Not. Rimane ancora un piccolo spazio, allora lo riempiamo prima di lasciare i nostri microfoni al programma Brussellando, come sempre, e questo piccolo spazio io naturalmente non lo posso lasciare inutilizzato, ma vi propongo un altro grande contrabbassista, Dave Holland, in un pezzo anche questo molto recente del 2008 intitolato Double Vision, tratto dal disco Pass It On. Dave Holland. E anche questa sera la nostra ora di jazz è passata molto velocemente, troppo velocemente, ma speriamo sempre con buona musica nelle orecchie. Vi ricordo che la puntata di oggi è dedicata al contrabbasso, il gigante a quattro corde. Il programma è sempre Jazz Dintorni, io sono sempre Stefano e spero di ritrovarvi anche martedì prossimo per altre proposte musicali sempre legate al jazz. Intanto vi saluto e vi lascio in compagnia di Brussellando. Mi raccomando, martedì prossimo. Vi ricordo che tutte le trasmissioni sono riascoltabili sul blog di Radio Alma, radioalma.blogspot.com. Se siete curiosi anche del passato, potete riascoltarlo lì in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a martedì prossimo. Hey, Tammy Mac is in your box with a new group that's straight fire. Shawnee Mac, Johnny B formed a soul group Impromptu, but it's unclear of what genre of soul we should categorize this groundbreaking duo with. So Shawnee Mac, exactly what is it? Right now, I wanna make it clear, Impromptu's not that we've been around for years. Highly respected among our peers for making good music people love to hear.